Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di nuovo, già l'abbiamo fatto ampiamente venerdì dopo il Consiglio dei Ministri, ma parleremo di nuovo della riforma del mercato del lavoro. Perché? Perché superata la fase di notizia vera e propria, si stanno analizzando i vari elementi del cosiddetto Jobs Act. Devo dire che ci siamo occupati molto nei mesi passati dell'elemento più politico, di scontro più politico, l'articolo 18, i reintegri obbligatori o non obbligatori. In realtà dentro questo decreto, poi uno può esprimere la valutazione che vuole, c'è tanta roba, ci sono tantissimi elementi che vanno al di là dell'articolo 18 e che riguardano soprattutto cosa capiterà alle nuove assunzioni, a chi ha un contratto in scadenza quest'anno, a chi pensa di poter avere un rinnovo contrattuale, a chi invece sta cercando un nuovo lavoro. Al di là delle cifre che abbiamo già visto e le assunzioni annunciate sui giornali da grandi gruppi, qui il tema è proprio cosa succederà anche alle piccole realtà. Faccio notare che domani con il Sole 24 Ore usciranno 6 pagine dedicate proprio alla nuova riforma del mercato del lavoro, lo speciale Jobs Act. Più contratti a tempo indeterminato, i vantaggi anche per chi lavora o deve fare un contratto a tempo indeterminato avendo una decontribuzione e quant'altro. Ce ne occuperemo sostanzialmente per sommi capi in apertura e poi domani, ripeto, il Sole 24 Ore. Poi ancora, per quello che riguarda i temi di questa giornata, l'incontro Hollande-Renzi da un lato, ma dall'altro anche la cessione ufficiale, a questo punto già l'abbiamo trattata ieri, di Ansaldo CTS e Breda vendute a Hitachi, tra l'altro questo valutate 9,65 euro per azione, poi verrà lanciata un'OPA, un'offerta pubblica di acquisto. Ancora per quello che riguarda i temi, la Grecia è arrivata, sta benedetta lettera della Grecia. E devo dire che insomma anche qui le valutazioni sono personali. Tsipras e Varoufakis sicuramente hanno creato un nuovo modo di intendere politicamente la Grecia, però poi nei concreti, sui contenuti, tutto questo muoversi, agitarsi ha partorito a mio avviso un topolino, nel senso che il governo rivedrà le privatizzazioni ancora da avviare, ma avanti con le privatizzazioni da avviare, solo 2 le misure sociali nella lista delle riforme greche, possibile l'estensione del salario minimo e di buoni pasto energia ai poveri, ma l'aumento del salario minimo dopo una consultazione con l'Unione Europea, meno ministeri, vabbè, queste sono decisioni interne, revisione dell'IVA e lotta all'evasione, e sostanzialmente l'Unione Europea dice beh, questo è un buon punto di partenza, e la Commissione quindi è incoraggiata anche dalla lettera greca. Devono arrivare però nuove specifiche entro la fine di aprile. E la borsa come sempre più 0,81% Milano, più 0,80% Francoforte, più 0,50% l'America, più 0,50% anche Londra. L'euro su dollaro è a quota 1,1350. Tra i titoli molto forte World Duty Free, dopo che oggi la famiglia Benetton ha detto di valutare qualunque ipotesi e offerta, più 5,86%, di essere aperta a qualunque valutazione. Iux più 3,20, A2A più 2,80, Enel più 2,5, Ferragamo più 2,30, Tenaris più 2,20. Fronte opposto, Monte dei Paschi meno 1,1, Finmeccanica meno 0,80, come Luxottica. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, rapidamente le altre notizie in breve. partiamo dagli altri temi. Dicevamo, per quello che riguarda Michiette, del petrolio, avete ragione, qualche giorno che non lo diamo, è sempre sotto i $50 il barile, a $49.60. E poi lo scontro Kiev-Mosca anche sulle forniture di greggio, perché la società energetica statale ucraina Naftogaz accusa il gigante russo del gas Gazprom di aver fornito all'Ucraina solo 47 dei 114 milioni di metri cubi di metano che Kiev ha pagato in anticipo giovedì scorso. E poi Gazprom ha risposto: ci sono seri rischi per il transito di gas russo in Europa visto che Kiev non ha effettuato il pagamento. Quindi botta e risposta che è nulla rispetto a quello che sta capitando sul fronte militare. Nel frattempo però il vicepresidente dell'Unione Europea per l'energia, Maros Sefcovic, ha detto: attenzione, i flussi di gas russo verso l'Europa per ora restano normali, non c'è nessun tipo di anomalia. Sull'economia internazionale, la numero uno della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, Janet Yellen, ha detto che sulla tempistica con cui la Banca Centrale Americana inizierà ad aumentare i tassi di interesse, e bisognerà aspettare un altro paio di meeting, che vuol dire almeno un altro paio di mesi. La Yellen ha aggiunto che esistono ancora rischi dall'estero per l'economia americana e che c'è ancora uno spazio per migliorare il mercato del lavoro. Sullo spread faccio notare che è calato sotto gli 800 punti anche lo spread greco, tra l'altro oggi è calato anche lo spread spagnolo, e l'asta a 3 mesi e a 9 mesi ha visto tutti i rendimenti in calo, per quello che riguarda l'asta di gennaio spagnola. Della Grecia parleremo più avanti, quindi non vorrei dilungarmi adesso, vi faccio però solo ascoltare come elemento di sintesi il giudizio a cui facevamo riferimento del portavoce della Commissione Europea Margaritis Skinas sulla lettera finalmente arrivata dalla Grecia a Bruxelles. I confirmed that yesterday before midnight we did receive the list of reforms by the Greek government. Confermo che ieri, prima di mezzanotte, abbiamo ricevuto la lista di riforme da parte del governo greco. La ricezione della lista segue le numerose discussioni costruttive tra la Commissione europea e altre istituzioni con le autorità greche. Dal punto di vista della Commissione, la lista è sufficientemente completa per essere un valido punto di partenza per una positiva conclusione della revisione del programma, come chiesto dall'Eurogruppo la scorsa settimana. È incoraggiante il forte impegno a combattere evasione fiscale e corruzione. Ora i prossimi passi spettano all'Eurogruppo e alle altre istituzioni che devono esprimere il proprio parere. E ha fatto il botto la borsa di Atene, più 9,8%. La chiusura della borsa di Atene, quindi un record in questo caso in positivo. Ancora, poi veniamo alla valutazione dell'accordo greco. Vedo che molti stanno scrivendo sul Jobs Act, adesso arriviamo anche al Jobs Act, abbiamo un intero spazio dedicato proprio a questo. Per quello che riguarda i titoli di Stato italiani, oggi l'asta dei CTZ ha toccato il minimo storico allo 0,21%, sono buone notizie per quello che riguarda quanto ci costa, e lo ripetiamo da tempo, per trovare dei fornitori per il nostro debito, dei pagatori per il nostro debito, dei prestatori e creditori per il nostro debito. E molti di voi ci fanno notare che invece il prezzo alla pompa, torniamo al tema della benzina, è aumentato. Sì, sì, qualcuno sta facendo il furbo, si tratta delle tasse, perché non c'è giustificazione. Abbiamo visto anche noi che sta risalendo il prezzo alla pompa, il petrolio invece resta a $49. La colpa questa volta non è relativa al 30% che compone il prezzo del petrolio, il prezzo della benzina come petrolio. Oggi Oggi la Corte dei Conti è intervenuta per bacchettare un po' il governo. Ha detto: attenzione, basta produrre nelle leggi di stabilità, nelle leggi finanziarie, coperture incerte. Ha citato la lotta all'evasione fiscale, poi ha anche citato la spending review, quella famosa dell'ormai scomparso, scomparso diciamo mediaticamente, Cottarelli, che ha detto alla Corte dei Conti: attenzione, sono molto difficili i risparmi di spesa previsti dal governo attraverso la spending review. Nel frattempo, per quello che riguarda le notizie italiane, è arrivata anche l'accordo sull'ILVA, o meglio, rispetto alla richiesta avanzata martedì scorso, il numero di esuberi all'ILVA scende da 4.459 a 4.070, sono quasi 400 in meno, e questi sono i lavoratori che dal 2 marzo usufruiranno dei contratti di solidarietà. L'accordo è arrivato quindi con sindacati oggi, sostanzialmente tra azienda ILVA e i sindacati appunto metalmeccanici. E si conclude oggi al Cairo la missione imprenditoriale del governo italiano, ABI, Confindustria, ICE, l'abbiamo già raccontata ieri. Oggi la missione si è spostata anche sul canale di Suez, dove in gioco ci sono appalti importanti e opere importanti anche per le nostre imprese. La nostra inviata lì, Livia Zancaner, ha intervistato Marcello Sala, che è vicepresidente del Consiglio di Gestione di Intesa San Paolo, nonché presidente italiano del Business Council italo-egiziano, sul progetto che vedrà collaborare Intesa San Paolo con il governo di Al-Sisi a supporto delle piccole e medie imprese anche egiziane. Nel recente incontro che ho avuto con il ministro degli investimenti ho proposto due modalità di supporto concreto allo sviluppo dell'Egitto sulla base delle esperienze che il gruppo ha maturato in Italia. Ho proposto al ministro egiziano di lavorare per il progetto di creazione di qualcosa di simile al fondo centrale di garanzia delle piccole e medie imprese che esiste in Italia e che noi come Intesa San Paolo utilizziamo e che crediamo sia una risorsa importante per il credito, per la facilitazione al credito alle piccole e medie imprese. Siccome in Egitto c'è un tema di finanziamento alla piccola e media impresa che non può essere risolto, almeno questo noi crediamo, con la creazione di istituti specializzati quando non c'è il know-how, meglio allora costruire una rete di garanzia che viene utilizzata da parte di chi invece sa analizzare le piccole e medie imprese, come noi sappiamo fare. Il secondo progetto è quello di supportare il governo egiziano nella creazione di un mercato dei titoli di Stato egiziani. Oggi non esiste un mercato dei titoli di Stato egiziani perché fondamentalmente l'Egitto è debitore in maggior parte verso l'interno, ma è quel poco che ha verso l'esterno e verso istituzioni finanziarie come la Banca Mondiale e l'AMF, ma nel momento in cui vengono proposti dei grossi progetti e quindi si vogliono attrarre dei grossi investitori internazionali, i grossi investitori internazionali poi hanno bisogno di garantire le loro esposizioni in valuta egiziana nel mercato dei titoli di Stato. Non essendoci un mercato di titoli di Stato, questo diventa una complicazione nella concreta realizzazione dei progetti che loro stanno annunciando. Allora, per quello che riguarda i messaggi, adesso arriviamo anche al resto. Devo dire, sul commento di Ateno, ho già detto, ne parliamo più avanti. Devo dire che le dichiarazioni di Moretti, amministratore delegato di Finmeccanica, sull'operazione Ansaldo STS e Breda, porteranno il gruppo Finmeccanica a un debito che scenderà sostanzialmente di 600 milioni di euro con una plusvalenza di 250 milioni di euro. Quanto ha pagato Itachi? Ha pagato complessivamente Ansaldo STS a 9,65 euro per azione 773 milioni di euro, il che porterà il 40% di Ansaldo STS, che era di Finmeccanica, a Itachi. Dopodiché Itachi lancerà un'offerta pubblica di acquisto. Ha confermato da Tokyo Itachi, che manterrà l'occupazione degli impianti invariati sia in Ansaldo Breda che in Ansaldo STS. E poi sul fronte manager ha detto: no, non intendiamo toccare i manager e i dirigenti, sono quelli giusti. Il numero uno di Finmeccanica Moretti ha detto: la vendita di Ansaldo è una tappa importante. A questo è dedicato, sono dedicati 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, che vengono trasmessi anche da Radio Dimensione Suono. L'autore oggi è il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. Finmeccanica ha annunciato oggi la cessione al colosso giapponese Hitachi di Ansaldo STS e Ansaldo Breda, due pezzi storici dell'industria italiana. La prima, specializzata nei prodotti e nelle tecnologie di segnalamento ferroviario, la seconda, Ansaldo Breda, specializzata proprio nella costruzione dei treni. L'operazione, che ha portato nelle casse di Finmeccanica, porterà circa 800 milioni di euro e gli consentirà soprattutto di abbassare il debito, segna una svolta importante per una parte storica dell'industria italiana. I nostri treni hanno corso in Europa, i nostri strumenti di segnalamento sono stati venduti in tutto il mondo, però purtroppo, con i tempi che corrono, saper fare tutto non è più possibile. È proprio per questo che Finmeccanica, cedendo queste aziende, si concentrerà in due settori ad alta marginalità, cioè con la possibilità di fare grandi profitti: la difesa e l'aerospazio. Ma che cosa sta succedendo? Come dobbiamo giudicare la cessione all'estero di quelli che appunto vengono spesso chiamati gioielli di famiglia? Se i nostri grandi gruppi fossero in grado di poter investire in più direzioni, certamente sarebbe stato meglio tenere queste aziende in Italia. Purtroppo oggi, con la globalizzazione e con la necessità di investire in ingenti capitali, tenere in Italia tutte le produzioni non è più possibile. La speranza, ma è anche l'impegno che ha preso Finmeccanica con questa cessione, è quella che i nuovi soci giapponesi siano in grado di investire su un asset importante non solo per il territorio di Pistoia, qui parliamo dell'Ansaldo Breda, ma soprattutto per l'economia italiana, in quanto da sapere essere competitivi in settori dove la tecnologia è importante, come diciamo appunto la difesa e l'aerospazio, può essere anche un'occasione di politica industriale. Saper orientare i nostri giovani in settori ad alto valore aggiunto, dove ci sono ancora possibilità occupazionali, e questo è l'importante per il paese. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it. Un giorno atteso da un'intera generazione, la generazione che ha visto la politica fare la guerra ai precari, ma non fare la guerra al precariato. Noi, nello momento stesso in cui rottamiamo e superiamo un certo modello di diritto del lavoro, allo stesso tempo superiamo l'articolo 18 e il Co.co.co e il Co.co.pro. Ma qualcuno potrà dire: beh, però se voi mettete la possibilità del superamento dell'articolo 18, il tempo indeterminato come lo abbiamo conosciuto non consentirà, non sarà molto diverso dal resto. Questa è l'accusa che ho letto in alcuni giornali, siti, news, articoli. Permettetemi di dire con molta serenità che parole come mutuo, parole come ferie, parole come buona uscita, parola come diritti entrano nel vocabolario di una generazione che ne è stata fino ad oggi esclusa in modo inaccettabile. Allora, questo è l'intervento del Presidente del Consiglio venerdì, giustamente enfatico dal suo punto di vista sulla riforma in atto. Ma al di là del tema di cui più si è parlato, ossia il licenziamento, articolo 18, reintegro, cerchiamo di guardare la parte che riguarda le assunzioni, perché abbiamo visto stime, la Confindustria stima 150.000 nuovi posti di lavoro in un anno, grazie al Jobs Act, l'ha detto Lisa Ferrarini, vicepresidente di Confindustria. Altri polemizzano, per esempio Landini ha detto che le tutele dello statuto dei lavoratori sono ora cancellate. Però al di là di questo, concretamente, io vorrei capire, da un lato con Davide Colombo del Sole 24 Ore, che è uno dei curatori delle 6 pagine che usciranno domani, speciale Jobs Act sul Sole 24 Ore. Buonasera Davide. Buonasera. e dall'altra col professor Pietro Garibaldi, nostro ospite già altre volte, uno di quelli che ha contribuito al famoso impianto, come si chiamava? Boeri Garibaldi. Buonasera professore. Buonasera. Boeri Garibaldi? Boeri Garibaldi, adesso Boeri fa il presidente dell'INPS, lei è ancora professore, non che sia un male, insegna economia politica all'Università di Torino, è direttore del Collegio Carlo Alberto. Perché cito l'ipotesi Boeri Garibaldi? Perché fu una delle prime a citare i contratti e tutele crescenti, se non ricordo male, mi corregga se sbaglio, e quindi a dire tu entrano tutti come precari e poi più resti in un posto di lavoro, più il tuo contratto viene... non irrigidito, ma viene strutturato. A mio avviso il principio è più che giusto, ossia l'azienda dopo un po' di tempo ha l'obbligo, il datore di lavoro, di mandarti via se non vai bene, oppure se continua a tenerti di rendere il tuo contratto via via più strutturato, più solido. Allora Garibaldi, mi dia un primo giudizio sulla legge complessivamente passata e poi andiamo dopo il meteo e la pubblicità anche ai singoli casi, perché io vorrei capire cosa succede adesso e lo vorrei capire anche con Davide Colombo, per chi deve essere assunto, per chi in realtà perde il posto di lavoro quest'anno, che cosa succede dopo 3 anni, nel senso l'azienda ti può tranquillamente licenziare o quando dovrebbe poi decidere di renderti a tempo indeterminato, che costo ha nel mandarti via dopo un anno, insomma tutto un insieme di dettagli. Però Garibaldi, prima il giudizio complessivo. Beh, è un cambiamento che quasi epocale sostanzialmente. No, diciamo, mica bisogna avere paura, sì. No, non è ancora completa. Non è ancora completa. Ancora dei pezzi di riforma che stanno arrivando, che sono in cantiere, alcuni li hanno fatti, però diciamo che il mercato del lavoro, come abbiamo conosciuto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è cambiato probabilmente per sempre, quindi indubbiamente è una riforma epocale. Se il governo riesce a fare anche gli altri pezzi, a finanziare gli ammortizzatori sociali che ha messo in essere e a sfoltire una parte di precariato, che magari ne parliamo dopo, la riforma può davvero essere importantissima e anche dare soddisfazione al mercato del lavoro che ha sofferto così tanto per tanti anni. Ma secondo lei quello che dice Renzi, cioè vengono superati i Co.co.co e i Co.co.pro, è vero o no? Beh, questo il decreto non è ancora legge, certo. È licenziato un nuovo decreto, una volta che andrà in Parlamento, dal 2016, dice il decreto, bisogna vedere cosa dirà il Parlamento, dal 2016 indubbiamente i Co.co.pro nel settore privato, perché il settore pubblico è sempre fuori, poi magari ne torniamo, nel settore privato se hai un solo committente, i monocommittenti sono quei precari che hanno certo. Un solo datore di lavoro, i parasubordinati, quindi non gli amministratori o i sindaci di società, quelli dobbiamo lasciarli come a progetto, non avrebbe senso certo. Toglierli, quelli lì davvero se andranno da giudice saranno trasformati col contratto di telecrescenti. Quindi questa è una grossissima novità. Ecco, e questo vale anche per le partite IVA? Anche se hai un solo committente, se sei una partita IVA che sei davvero un po' falsa, se hai una partita IVA che sei un vero figlio professionista, non ha nessun senso essere assunti da un datore di lavoro. Ma ma molti avvocati, commercialisti, lo sappiamo, vengono obbligati a fare la partita IVA anche se lavorano in ufficio tutti i giorni, insomma, diciamocelo ecco, tutto. Ecco, quelli lì andranno dal giudice e diventeranno assunti con il contratto delle crescenti, quindi avranno un contratto a tempo indeterminato, questo è importantissimo, a tempo indeterminato, ma comunque se non vanno bene l'impresa avrà la possibilità, dietro una retribuzione, quindi di interrompere il rapporto di lavoro, dietro una compensazione che sarà più importante più anni avranno fatto in azienda, quindi non è che staranno lì a vita, se poi vanno male. Davide Colombo, c'è un po' di confusione, a mio avviso, insomma, in questo momento, tra il contratto a tutele crescenti e l'assunzione a tempo indeterminato tout court, che ti permette per i primi 3 anni di non pagare buona parte dei contributi, quindi diventa vantaggiosa dal punto di vista economico. Dario? Sì, è una, diciamo, è una questione di, a questo punto, di pochi giorni, perché quando il decreto legislativo che regolamenta il contratto a tutele crescenti andrà in gazzetta, a questo punto tutte le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato saranno con contratto a tutele crescenti. Se ti riferivi al fatto degli sgravi previsti in legge di stabilità, cioè i 1,8 miliardi che è stanziato per questo primo anno del triennio, diciamo che chi ha fatto delle assunzioni con contratto a tempo indeterminato standard, quindi ancora a gennaio e febbraio, in attesa che arrivassero i tutori crescenti, ha comunque fatto un contratto a tempo indeterminato e quindi sicuramente può beneficiare dello sgravio fino a 8.060 euro l'anno per lavoratore. Dopodiché, appunto, con il nuovo contratto ci sarà solamente questo è il nuovo contratto a tempo indeterminato. Per cui nella parte di transitoria ci possono essere tutti e due? Direi sì, forse ecco, un'altra distinzione è il nuovo contratto a tutele crescenti, una volta in vigore, una volta attivati i primi contratti, appunto solo per questi vale la riforma dell'articolo 18 così come è stata fatta con certo. questa nuova legge delega. I vecchi mantengono diciamo il profilo legge 92, cioè riforma Fornero, l'unica distinzione è per le aziende con meno di 15 dipendenti, cioè se queste superano i 15 dipendenti con una nuova assunzione con contratti a tempo indeterminato o tutele crescenti, in quel caso scatta anche retroattivamente, cioè per i vecchi dipendenti diciamo cambia la regulation sull'articolo 18. minuti. Allora, io lo sapevo che la confusione si sarebbe creata su questo, perché vedo molti messaggi, parliamo del Jobs Act. Allora, Davide, chiaramente anche professor Garibaldi, correggetemi se sbaglio. L'agevolazione per i contributi vale dal 1 gennaio al 31 dicembre di quest'anno, e cioè per in questo anno, se un'azienda ti assume a tempo indeterminato, l'esonero totale dei contributi previdenziali a carico suo fino a un massimo di 8.000 euro all'anno per 3 anni e altri vantaggi. E da qui che Davide avete fatto su Sole 24 Ore anche numerosi studi comparativi per mostrare quanto conviene a un'impresa assumere a tempo indeterminato piuttosto che tenenti come CocoPro o lavoratore a tempo determinato, Davide, giusto? Cioè, il vantaggio è solo per il 2015, poi dal 1 gennaio 2016 tutti i contratti diventeranno, come abbiamo descritto prima, a tutele crescenti. Davide? Dunque, no, allora... No, correggimi. Dentro il 2015 c'è lo sgravio che ha una durata triennale, esatto, per tutti i contratti a tempo indeterminato. Che vengono però fatti quest'anno? Che vengono fatti quest'anno. Okay. Dal 1 di marzo si suppone sia operativa in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo sulle tutele crescenti, quindi saranno contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, cioè a dire con il nuovo articolo 18 riformato che prevede in caso di licenziamento per motivo oggettivo, per esempio per motivi economici, un indennizzo e non più l'ipotesi di reintegro, certo, fino al massimo di 24 mensilità a seconda dell'anzianità del lavoratore. Dopodiché dal primo gennaio prossimo, al 2016, se andrà in porto così come è stato presentato il decreto legislativo che riforma i contratti, esce di scena il CocoPro, escono di scena le partecipazioni in associazione. Restano per esempio i contratti a tempo determinato, certo, che sono stati appena liberalizzati nel giugno scorso dal decreto Poletti e che possono avere una durata di 36 mesi e un rinnovo fino a 5 volte nel durante di questi 36 mesi senza causali. Diciamoci che dal punto di vista della convenienza i CocoPro che vengono di fatto aboliti per legge a partire dal gennaio prossimo erano già una sorta di ramo morto, perché con una liberalizzazione così forte sui contratti a termine, con uno sgravio così forte sui tempi indeterminati e tutele crescenti, certo, è abbastanza difficile trovare un imprenditore che va a scrivere un progetto che lo motiva, lo articola, eccetera. Quindi diciamo che esce di scena. Però, perché vedo molti messaggi anche di tenore diverso, per esempio una signora mi scrive che hanno trasformato in assunzione a tempo indeterminato già a fine mese il contratto CocoPro che era in essere per suo figlio e anche altri colleghi e doveva durare fino a fine anno. Tiriamo un sospiro di sollievo, cioè il datore di lavoro in questo caso ha ritenuto vantaggioso assumere a tempo indeterminato entro il 2015, visti gli sgravi che tu hai contributivi per 3 anni, piuttosto che tenere queste persone come Coco Pro, anche perché, come tu ricordavi, erano già in un binario morto. Diciamo che è un caso di imprenditore che più che al nuovo profilo dell'articolo 18, diciamo al nuovo profilo della regulation sull'eventuale licenziamento del lavoratore, è stato molto interessato a cogliere subito lo sgravio. Beh, che ripeto, sai, c'è caso e caso, perché professor Garibaldi, ci passa quello che ha bisogno di queste funzioni, vuole tenersi anche queste persone. Adesso ha un vantaggio molto grosso dal punto di vista dei contributi, perché, ripeto, come il sole ha dimostrato, non solo sui redditi da 22.000 euro lordi hai un vantaggio importante, ma fino a 45.000 euro lordi continui ad avere un grosso vantaggio nell'assumere a tempo indeterminato per 3 anni, come, esatto, per quello che ti costa il lordo del lavoratore, perché non devi versare 8.000 euro di contributi annui. Diciamo, ci sono casi diversi, professor Garibaldi, per cui se tu hai già bisogno di queste funzioni non aspetti il gennaio 2016. No, lo fai adesso perché ti porti a casa i vantaggi contributivi per 3 anni. Assolutamente, se lo fai nel 2015 hai vantaggi contributivi, se lo fai nel 2016 non ne ho. Non ne hai di vantaggi. Non sappiamo, dipenderà dalla prossima finanziaria, questo. Esatto. Una delle incertezze che abbiamo, dipenderà il prossimo autunno, vedremo se ci sono i soldi. Per cui nessuno assume per vantaggi per 3 anni, ma se tu hai bisogno di persone che stai tenendo a Coco Pro e sono valide e ritieni che ne avrai bisogno almeno per 3 anni, anche dopo, adesso hai un grosso vantaggio, aspetti gennaio 2016 non ce l'hai più, molto banalmente. Davide, a che punto siamo invece con la NASPI? Perché questo è un altro punto molto delicato, cioè abbiamo capito che il vantaggio contributivo solo 2015 è solo sul tempo determinato, dal gennaio 2016 tutti uguali i nuovi contratti e tutti a tutele crescenti. Ah no, ti devo chiederti una cosa prima: cosa succede dopo 3 anni? Cioè, le mie tutele diventano sempre più crescenti, mi assumete dal 2 gennaio del 2016, sono anch'io un precario, insomma un contratto con poche tutele, come si sviluppano questi 3 anni e poi che succede dopo 2 anni e 11 mesi? Mi licenziate? Dunque, questa è... Cioè, al di là del tuo desiderio, ma parla in maniera obiettiva. Le tutele crescenti dal punto di vista del licenziamento sono legate al fatto che appunto tu hai un indennizzo che è più o meno calibrato su 2 mensilità per ogni mese di lavoro, di contratto a tempo subordinato con le tutele crescenti, fino a un massimo di 24 mesi, okay, che appunto raggiungi laddove hai avuto una duration del contratto più lunga. Ugualmente la NASPI, che è la nuova ASPI, la nuova assicurazione in caso di disoccupazione involontaria, può avere un allungamento rispetto alla vecchia ASPI fino a 24 mesi ed ha un tetto di reddito, il 75% dell'ultima retribuzione, fino a un massimo di 1.300 euro al mese. Allora, questa tutela è più forte della vecchia ASPI, ovviamente più forte della mini ASPI per i collaboratori, è finanziata, diciamo, è finanziata con circa 900 milioni secondo le stime che ha fatto la ragioneria sul primo anno, ed è finanziata pescando dal fondo di 2,2 miliardi che la legge di stabilità ha stanziato anche per coprire la cassa integrazione in deroga che dovrebbe uscire di scena nel durante di quest'anno. Il problema è fare la riforma della cassa integrazione ordinaria e straordinaria per effettivamente mandare in soffitta la cassa integrazione in deroga e riuscire a stare dentro quei 2,2 miliardi che sono stati stanziati. Sì, Non sono tanti, perché 950 milioni per chiudere la cassa in deroga dell'anno scorso li ha chiesti Chiamparino proprio nel giorno, sì, del Consiglio dei Ministri. Tu giustamente ti stai occupando anche delle coperture. Io, certo, sono nella fase preliminare e vorrei capire cosa succede al mio contratto a tutele crescenti. Cioè, diciamocela tutta, poi lo girerò anche al professor Garibaldi la domanda. Sì. Il sospetto degli ascoltatori è: ho capito, uno può rischiare di, come impresa, sfruttare tutti i vantaggi, poi quando arriva il momento di trasformare il mio contratto in tempo indeterminato, cioè il massimo delle tutele possibili dopo 3 anni, e tu a quel punto non lo fai e voi dite sì, però paghi 24 mesi di stipendio. Certo che uno fa un calcolo e dice ma mi conviene pagare uno che poi non lavora per 24 mesi. Però il timore c'è, perché a quel punto e poi mi fai ripartire da zero. Allora, professor Garibaldi, non so se è chiaro il dubbio di molti, dai, diciamo, la radio si fa con la pancia oltre che con la testa. Tu mi tieni per quasi 3 anni e poi quando è il momento di trasformare il mio contratto in tempo indeterminato mi mandi a casa, è chiaro, ti costo 24 mesi di indennizzo e poi mi tocca ripartire da zero, cioè cosa faccio? Passo una vita come in un film, arrivare quasi lì per farcela come nella tombola e poi torno indietro di 3 anni con le caselle? No, dunque abbiamo un mercato del lavoro che sarà diverso, quindi è evidente che avendo sostanzialmente messo in cantina l'articolo 18 avremo un contratto in cui si interrompe più il lavoro, si licenzia di più e si assume di più. Questa è chiaramente il cambiamento. È importante. Questi giovani, in particolare penso ai giovani, sostanzialmente prima della riforma erano precari a vita. Questo adesso è vero. Hanno un contratto a tempo indeterminato, quindi il successo della riforma sarà la riduzione del precariato. Quello è il vero metodo di successo. Poi ovvio che questo contratto a tempo indeterminato nuovo è un contratto che il datore di lavoro può interrompere, bisogna superare la filosofia che tempo indeterminato vuol dire inamovibile. Questa è la no, cosa ma lei ha ragione importante. E ci sono cascato anch'io, perché evidentemente sono... Anche lei, mi scusi, sì, sono, ha ragione, mi sto autocriticando perché sono vecchio anch'io dentro, e ci mancherebbe. Sì, questo è... Perché, la ringrazio professore, no, ha ragione, perché è vero, la legge nuova cambia la mentalità e dice tu tanto sei licenziabile, adesso la forzo un po', sei comunque licenziabile anche se hai un tempo indeterminato. Esattamente. Quello che fa, e bisogna darne atto, che mentre adesso tu eri un precario, ci restavi 2, 3, 4, 5, 6 anni e se l'azienda interrompeva il contratto andavi a casa e basta, adesso da un lato arrivati ai 3 anni tu, l'azienda deve comunque pagarti 24 mensilità, che non, sì, non è pochissimo. Ma non è che vivono per licenziare le imprese. No, ma non lo dica a me adesso, professor Garibaldi, va bene tutto. No. Vecchio dentro sì, ma conosco le imprese. Allora, dico semplicemente che intanto c'è una tutela in più, perché ho capito bene, ma il Cocoprò va a casa e basta, l'interinale va a casa e basta. Adesso, se anche dopo 2 anni, come spiegava bene Davide Colombo, no? Ogni mese lavorato sono 2 mesi di indennizzo, per cui... fino a un massimo di 24 mesi, se dopo 2 anni è contratto tutele crescenti, l'azienda dice basta, non mi servi più, lavori male, non abbiamo bisogno, comunque ti dà a quel punto già 24 mesi di che sono 2 anni di lavoro. Ma soprattutto quello che dice lei, sì, uno può anche eliminare dopo tre anni con questo, ma qualunque lavoro a tempo indeterminato, magari lo interrompe dopo 4, magari lo interrompe dopo 5, non è più per sempre, e in questo io ero vecchio nel ragionamento che facevo. Ancora una domanda per Davide Colombo e poi torno a lei, professore. Davide, ma non è una contraddizione aver mantenuto comunque i contratti a tempo determinato con il limite dei 36 mesi con 5 proroghe anche dal 1 gennaio 2016 quando parte l'unico contratto a tutele crescenti? La scommessa del governo è che tutte e due queste gambe camminino, cioè loro hanno voluto fare una forte liberalizzazione dei contratti a termine, hanno voluto mettere in pista con forti sgravi il contratto a tutele crescenti, cioè il tempo indeterminato nuovo, diciamo, e hanno voluto cancellare i Cocoprò. Diciamo che sui contratti a termine futuri c'è lo sgravio, diventano più un po' più onerosi, ecco. Mantenere i contratti a termine sarà più oneroso, non dimentichiamo conviene... certo. C'è anche il taglio IRAP sulla base imponibile legata al costo del lavoro sui contratti a tempo indeterminato che per quest'anno cifra 2,7 miliardi e l'anno prossimo sarà 4,5, per cui diciamo che la scommessa l'ha spiegata Poletti a più riprese. Oggi abbiamo l'85% delle nuove assunzioni che sono, diciamo, atipiche o comunque sì, a termine, e il 15% sono contratti a tempo indeterminato. Lui vuole invertire questo equilibrio. Questa è la scommessa. Beh, se ci riesce, complimenti al governo Renzi. A me non mi frega nulla se piace o non piace Renzi, certo. Poletti. Però attenzione su questo, perché vedo molti messaggi, secondo me, di gente che è a tempo indeterminato ed è vecchia quanto me come mentalità, nel senso che non ha capito come funzionano i contratti per chi ha almeno meno di 30 anni adesso, perché se dite quindi diventeremo tutti precari a tempo indeterminato, non male, probabilmente è così, professor Garibaldi, cioè avrai delle tutele che adesso i precari non hanno. Esattamente. Perché anche da un punto di vista economico, ripeto, chi ha 30 anni e meno di 30 anni a 1.500 al mese va via da un mese all'altro e praticamente indennizzi non ce ne sono, almeno qui ogni mese di lavoro ne guadagni 2 di indennizzo. Non mi sembra a meno che non vogliamo parlare di brioche, pochissimo. Certo, chi è abituato a essere assunto a tempo indeterminato, intoccabile, che resterà intoccabile perché vale per i nuovi contratti, sì, dice: ma come, qui precarizzano? Sì, precarizzano un po' te, ma sistemano un po' i tuoi figli, che forse non hai capito in che giungla stiano vivendo grazie a queste forme brillanti introdotte di qualunque tipo. Secondo aspetto, ripeto, gli incentivi e le assunzioni sono solo per il 2015, è un altro ragionamento. Secondo aspetto invece, che citava Davide Colombo, attenzione, i contratti a tempo determinato sono sempre meno convenienti e quindi si ribalterà, diciamo, il rapporto. Ho ancora un elemento, ma non ho più il tempo, quindi chiedo al professor Garibaldi di restare in collegamento con noi, perché volevo capire alla fine dove c'è la debolezza più forte in questo impianto, perché so che lei qualche critica ce l'ha. Io ringrazio intanto il collega Davide Colombo. Domani sei pagine, giusto Davide? Sei pagine, domani sono sulle 24 ore. Dove spiegherete molto meglio di come abbiamo fatto... Non ha fatto sottoscritto tutti i dettagli di sto contratto, che però insomma va capito molto bene e senza paraocchi ideologici, lo dico al di là del... Guardate, i due limiti, così do già la domanda al professor Garibaldi, secondo me di questa riforma del mercato del lavoro sono due: A, non si applica al pubblico impiego, compresi i professori universitari; B, non è retroattivo e quindi sostanzialmente creerà una nuova forma contrattuale solo per chi viene assunto tra un anno, gli altri restano come prima. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non possiamo rispondere, sono arrivate centinaia di messaggi, ne stanno arrivando a 30-40 al minuto sul nuovo contratto di lavoro, i nuovi contratti di lavoro. Una cosa è certa, ripeto, perché vedo che l'incertezza non era solo mia. Allora, gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato, quindi prima che entri in vigore la legge, che se il Parlamento la licenzierà come è uscita dal governo sarà il 1 gennaio 2016, valgono solo per il 2015. Le tutele crescenti non ci sono ancora adesso, non è legge, per cui il vantaggio fino a un massimo di 8.000 euro all'anno e per un periodo massimo di 3 anni è solo per i contratti che vengono fatti a tempo indeterminato per quest'anno. Poi c'è il tema del 2016 e del contratto tutele crescenti. Allora, professor Garibaldi, dicevo, c'è un cambio di mentalità che lei giustamente sottolineava, per cui tutti i nuovi contratti diventeranno a tempo indeterminato, diciamo, se tu rispetti 3 anni, ma non saranno, ma il tempo indeterminato non vorrà più dire che non sei più licenziabile. Esatto. Con uno svantaggio rispetto ai contratti precedenti a tempo indeterminato, che ormai però riguardano solo il 15% dei nuovi contratti, e un vantaggio invece per tutti quelli che sono la stragrande maggioranza, 85% dei nuovi contratti e la stragrande maggioranza dei giovani, che in questo momento hanno solo il lavoro chiamato precario, interinale, chiamatelo come volete, senza tutele, che invece... E senza maternità e senza malattia. Che si vedranno invece riconosciute delle tutele da contratto a tempo indeterminato, pur restando il fatto che il licenziamento sarà possibile anche a tempo indeterminato. Lo spiego in questo modo. È giusto. Allora, questo vorrà dire anche, visto che ce lo chiedono in molti, un diverso rapporto con il mondo bancario, perché c'è la maternità, e lei ha ragione a ricordarlo, e non è una cosa da poco, ma c'è anche il tema dei mutui, cioè dell'accesso al credito, che in questo momento chi ha il tempo, chi ha il Coco Pro, manco lo accolgono, esatto, in banca, capito? Per fare un mutuo. In quel senso tu avrai un contratto a tempo indeterminato, cioè dopo 3 anni al massimo delle tutele, per tutti. Cioè non è più possibile. Senza un termine, non c'è scritto. C'è scritto che tu sostanzialmente, se funzionano le cose, andrai fino alla pensione con quel contratto. Non c'è un termine, è a tempo indeterminato. Esatto, i tre anni però sono il periodo in cui si strutturano le tutele, professore? No, dunque le tutele per i primi due anni sostanzialmente si può interrompere con 4 mesi di anzianità, di lì in poi aumentano di un mese all'anno in esatto. caso di interruzione, questa è la cosa. Lo sgravo fiscale è un'altra cosa, dobbiamo proprio sostanzialmente distinguere le due cose, lo sgravo fiscale ha spiegato prima lei, se no si crea confusione. È solo per il 2015? Ed è solo per il 2015. E con i vecchi contratti, e con i vecchi contratti, mi scusi, perché non è ancora legge, quindi se io assumo domani... Però dalla prossima settimana, diciamo che da marzo, quando ormai il nuovo contratto sarà in gazzetta ufficiale, il nuovo assunto a tempo indeterminato va sia lo sgravo che la tutela crescente, perché a quel punto esatto. marzo-aprile... Marzo-aprile, quando uscì, però diciamo domani vengo assunto a tempo sì. indeterminato, sono ancora col vecchio contratto... Esatto. E esatto. però l'azienda ha il vantaggio di avere 3 anni di decontribuzioni. Però è per pochi giorni, perché ormai è in gazzetta ufficiale. Sì, è vero, e infatti ha anche ragione chi dice attenzione, guarda che partirà, sì, appena partirà in gazzetta ufficiale varrà il contratto tutele crescenti, ma gli sgravi fiscali sono solo per il 2000, gli sgravi contributivi non fiscali. Sono solo per il 2015. Ancora volevo capire che cosa la lascia più perplesso invece di questa legge, fermo restando che cambia l'impianto mentale con cui ragioniamo e che c'è una cosa insopportabile, devo dirla in chi scrive, in alcuni commenti che vedo. C'è un modo di raccontare. Allora, tutto si può dire, per carità, però non si può falsificare la realtà. Noi non veniamo da un mondo in cui sono tutti a tempo indeterminato, tutti tutelati e andiamo a rompere le tutele. Noi veniamo da un presente, e che è anche il passato, ma dal presente, in cui sostanzialmente si è creata nel corso degli anni una precarizzazione costante del mercato del lavoro dei nuovi assunti, ok? Creando i lavoratori di serie A, quelli assunti a tempo indeterminato, con la stragrande maggioranza dei neoassunti con forma di coco pro, staff leasing, quello che volete, no? Che non hanno diritti, non hanno tutela, non hanno niente, maternità, mutuo, nulla, né indennizzo, perché voi direte un mese di indennizzo ogni anno lavorato, ho capito, parti da 4 mesi, lavori altri 3 anni e sono comunque 4 più 3, 7, se ho ben fatto il calcolo, per cui... È sempre meglio che il nulla attuale, questo sto dicendo, e la maternità è sempre meglio che il nulla attuale, la malattia è sempre meglio che il nulla attuale e via così anche i rapporti con il mondo bancario. Quindi non descriviamo, l'unica cosa come onestà intellettuale, un mondo che non c'è, non è un mondo di tutti tutelati in cui si vanno, ci sono alcuni tutelati che resteranno tutelati e altri che avranno maggiori tutele. Che cos'è, secondo lei, dove sono gli elementi di debolezza nella legge? Beh, sono due cose che lei ha toccato nella discussione che abbiamo fatto. Uno è chiaramente il pubblico impiego, perché i nuovi assunti, anche diciamo, all'università, che dove io anche lavoro, un nuovo ricercatore assunto all'università, anche se non produrrà e sarà a tempo indeterminato, non sarà sostanzialmente interrompibile il rapporto di lavoro. Non si vede perché nel settore privato della ricerca invece quello sarà... Quindi se facciamo la nuova riforma, questa è una lacuna che non ha tanto senso in prospettiva avere questa differenza tra settore pubblico e settore privato. La seconda, quindi questa è una. La seconda è una cosa che ha detto giustamente anche lei sul contratto a termine, cioè andiamo oltre gli sgravi contributivi. Indubbiamente un contratto a termine per 3 anni, rinnovabile 5 volte, io vedo solo un po' il rischio che un'impresa inizi col contratto a termine di 6 mesi, lo rinnovi 5 volte, poi ti dà il contratto delle crescenti, il cursus honorum è un po' lungo. Secondo me bisognerebbe ridurre a 2 la durata massima del contratto a termine. Questo è una cosa che ho scritto in questi giorni, che insomma il governo sa, speriamo che... Cioè 36 mesi sono troppi. Perché poi dopo, se tu parti con 36 a termine, rinnovato magari ogni 6 mesi, e poi il contratto decrescente è un po' lunga. Sì, ho capito lo dice lei. E che anche questo, ma è un dettaglio che speriamo importante che il governo adesso in questo mese col Parlamento metta a posto. Mentre sul pubblico impiego ne abbiamo già parlato, lì la scelta di carattere politico, dai, insomma, anche è a me totalmente non politica. E anche secondo me è sbagliata perché crei i lavoratori, diciamo, una differenza nei vecchi e nuovi contratti e fin qua è ovvio. La legge non ha valore retroattivo, però non si capisce perché anche il pubblico impiego non possa adeguarsi visto quello che raccontiamo. Ripeto per l'ultima volta, né ringraziare intanto il professor Pietro Garibaldi che nel contratto tutele crescenti tra le altre cose c'è anche l'indennizzo, che non può mai essere inferiore ai 4 mesi, per cui per molti ci stanno scrivendo, quindi, e non può mai essere superiore ai 24 mesi, sono 2 mesi che si sviluppano da un minimo di 4 ogni anno di lavoro in più, per cui se poniamo dopo 2 anni, o meglio dopo 5 anni, ti vieni licenziato, sono, visto che il minimo sono 4, sono 5 per 2, sono 10 mensilità che tu ricevi, ok? Da questo punto di vista anche qui è nuova, perché i Coco Pro, fino a prova contraria, di mensilità in caso di interruzione del rapporto finiva il contratto a progetto, grazie, arrivederci, e andavi a casa, oppure magari ti richiamavano dopo 6 mesi. Ecco, questa cosa qui non è più possibile, perché se tu hai lavorato per un anno hai minimo 4 mesi di liquidazione, chiamiamola così, di indennizzo, e se hai lavorato 15 anni comunque hai un massimo di 24, di 2 mesi di indennizzo. Devo dirti la verità che 2 anni, cioè 24 mesi è già buono rispetto a quello che fanno molte volte le aziende quando chiedono i prepensionamenti o licenziamenti su base, diciamo, incentivano la persona ad andarsene. Minuti, chiedo a Venia, alcuni mi fanno notare che nel parlare, è un'ora che ne parliamo, ho detto un indennizzo di 2 mesi ogni mese lavorato, no ragazzi, va bene tutto, chiaramente è un refuso, è un mese, sono 2 mesi ogni anno lavorato, voglio dire, ma chi è che ti assume se poi sviluppi un indennizzo di 2 mesi per ogni mese che lavori? Adesso va bene che, perché contratto tutele crescenti, ma lì tutti vorrebbero essere licenziati, lavori 6 mesi, ne pigli uno di stipendio, no, sono 2 mesi ogni anno lavorato, ripeto, per un minimo di 4 mesi, che adesso non esisteva neanche il minimo, fino a un massimo di 24 mesi, quindi se hai lavorato non è che arrivi a 30 mesi, il massimo sono 2 anni. La borsa più 0,80% Milano, più 0,70% Francoforte, più 0,40% l'America, più 0,50% Londra e Parigi, più 0,50. Pochi spunti oggi, se non World Duty Free, più 6,40%. Flavia Carletti, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. World Duty Free. Sì, allora è stato il miglior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione di Piazza Affari, grazie a queste voci che continuano a girare sul mercato di un interesse da parte di qualche gruppo internazionale. Non smentita dalla famiglia Benetton, esatto, oggi. Infatti, oggi è uscita una nota di Edizione Holding, che è la controllante di World Duty Free della famiglia Benetton, e le parole di Gilberto Benetton sono che, anche se non c'è niente di nuovo rispetto al comunicato del 29 gennaio, quando l'azienda aveva indicato di essere aperta a eventuali opzioni di crescita, comunque la società ha precisato l'imprenditore che ha ricevuto alcune manifestazioni di interesse e che loro stanno mano a mano ascoltando tutti e vanno avanti con le trattative. Allora, Finmeccanica ha incassato una bella cifra, 770 milioni solo per quello che riguarda l'operazione ansaldo, complessivamente ansaldo CTS e ansaldo Breda, tant'è che la plusvalenza netta sarà di 250 milioni e ridurrà l'indebitamento netto a 600 milioni. Il titolo però soffre un po', meno 0,91%, ieri aveva fatto il botto, sono realizzi? Sì, esattamente, diciamo, visto che ieri era salito del 6,20% e del 39% da inizio anno, l'idea degli operatori è che oggi, visto che ormai, diciamo, la notizia è certa, era più salita sull'attesa, come volte capita. Beh, e adesso che la notizia detto, ufficiale si vende. Il vecchio detto è: si compra sulle voci, si vende sulle notizie. Esatto. Allora, ancora per quello che riguarda, tra l'altro faccio notare che il gruppo Finmeccanica ha detto che nonostante questa operazione e nonostante l'indebitamento si ridurrà di 600 milioni a fine a 2015, a 600 milioni in meno, non vi sarà nessun dividendo straordinario, per cui non ci saranno utili distribuiti, soldi distribuiti agli azionisti. Monte dei Paschi meno 1,45%. E va bene, faccio notare che dall'11 febbraio il titolo ha guadagnato il 45%, CNH meno 0,60%, Mediaset pure come Luxottica e Fiat Chrysler meno 0,60% anch'essa, Jux più 3,20%, A2A più 2,70%, Tenaris più 2,40%, Ferragamo più 2,20%, Banco Popolare più 2,20%, Saipem più 2%, Snam più 2%, Enel più 1,80%, Unicredit più 1,80% anch'esso. Devo dire, oggi spolvero un po' gli energetici, A2A e Enel. Un movimento che è stato, che si è verificato in tutta Europa. Sono andati bene gli energetici sia a Parigi che a Francoforte e hanno in qualche modo sostenuto tutto il comparto. In più anche i petroliferi, che stamattina erano partiti un po' deboli, comunque sono andati bene, perché sui mercati vedono un po' che c'è quasi una stabilizzazione un po' dei prezzi del petrolio in qualche modo. Diciamo, non, probabilmente non ci saranno più grossi scossoni. E poi oggi anche il, cioè, Janet Yellen, il numero uno della Federal Reserve, ha parlato anche di petrolio, comunque dicendo che probabilmente questi livelli di prezzo sono dovuti più che a un calo della domanda al fatto che c'è un aumento delle scorte a livello mondiale, quindi comunque ha rassicurato un po' dicendo che sì, probabilmente il settore taglierà gli investimenti, ci potrà essere qualche ripercussione per quanto riguarda queste aziende in particolare, però ci potrebbe essere comunque un beneficio per tutta l'economia in generale. E quindi anche oggi per esempio il WTI saliva a New York dopo un avvio invece che sembrava debole. Migliori e peggiori: Acotel Group più 12,90, Class Editori più 6,70, World Duty Free più, appunto dicevamo, più 6,40. La vera unica notizia di borsa oggi, la giornata capita, è molto tranquilla, con assenza di grosse notizie. World Space meno 6,40, Molmed meno 4,50 e Banca Cassa di Risparmio di Genova meno 3,94%. Grazie anche a Flavia Carletti di Radio Cori Sole 24 Ore. Istanti fa il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble ha sostenuto, ha appoggiato la richiesta di Atene di un prolungamento di 4 mesi del programma. Lo ha fatto di fronte al gruppo parlamentare della CDU e questo fa il paio con il giudizio dato oggi anche dalla Commissione Europea, che dice un buon compromesso, ha detto Hollande dopo l'incontro con Renzi. La Commissione Europea ha detto attenzione, è un buon punto di partenza la lettera in cui la Grecia sostanzialmente rivedrà solo le privatizzazioni da avviare, non quelle già avviate, solo 2 misure sociali nella lista delle riforme greche, l'aumento del salario minimo solo dopo una consultazione con l'Unione Europea, e poi rivedrà l'IVA ma anche la lotta all'evasione. Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Allora Adriana, tu scrivevi, così evito la nostra querela ormai mensile, tu scrivevi 2 giorni fa sul Sole 24 Ore doppio pesismo ed eurodemocrazia, però io ti voglio chiedere un'altra cosa: è la montagna greca che ha partorito un topolino di lettera, oppure alla fine Tsipras e Varoufakis politicamente hanno avuto moltissima visibilità, hanno obbligato comunque la Commissione Europea a un accordo e in parte sono anche loro vincitori? Quale delle due? No, io direi che in questo caso il vincitore, cioè in realtà il vincitore è l'euro, ma diciamo che se dovessimo guardare i paesi che hanno giocato la partita, chi ha vinto e chi ha perso, non c'è dubbio che hanno vinto chi ha vinto il fronte del nord, la Germania e i suoi alleati, che però in questo caso non erano soli, perché la cosa diversa che è successa in questo negoziato è che per una volta, essendo tutti creditori la Grecia, il fronte è stato compatto. Uno, due, sia i partiti, diciamo, i governi d'espressione del Partito Popolare, sia i governi socialisti si sono coalizzati per non concedere nulla alla Grecia in quanto paese debitore, in quanto primo tutti ci avrebbero rimesso dal punto di vista finanziario, secondo temono di rimetterci dando delle concessioni alla Grecia dal punto di vista politico, perché naturalmente i socialisti vedono Siriza come un concorrente a sinistra e i popolari temono, per esempio in Spagna che andrà alle elezioni, Podemos certo, possa, diciamo, essere facilitato da una vittoria di Siriza e di Tsipras. E quindi tutto questo ha congiurato contro la possibilità di Tsipras di avere diciamo un buon accordo. Quindi i vincitori sono, tu dicevi giustamente, il fronte del noi tedeschi, ma in questo caso, ho fatto bene a ricordarlo, chi più esposto, chi meno esposto, ma sotto sotto tutti i paesi erano, per i motivi politici che tu hai ricordato, ma anche per i motivi economici, cioè siamo tutti creditori della Grecia. Secondo te questo potrà indebolire la posizione di Tsipras poi in Grecia, o comunque lui riesce a vantare il miglior accordo possibile? Ma sicuramente lo indebolisce, nel senso che c'è il timore che una frangia di 30 deputati possa abbandonarlo. Allora, nel caso in cui ci si dovesse limitare appunto a votare, perché dovrà essere votato e approvato dal Parlamento greco l'attuale compromesso, il problema non si pone, nel senso che l'opposizione, Nuova Democrazia, PASOK e compagni sarebbero per far passare l'accordo, mentre in prospettiva si potrebbe porre un problema di stabilità per Syriza, perché va bene, diciamo, accogliere il rigore delle politiche europee, sia pur con qualche elemento di flessibilità, ma altra cosa sarebbe mettersi a governare con Nuova Democrazia, insomma. Sì, certo. Faccio notare però che oggi la Borsa d'Atene ha festeggiato, per quello che vuol dire, ma insomma ha raggiunto quasi il 10% di rialzo, a dimostrazione che le paure e le tensioni c'erano anche in Grecia. E poi c'è la protesta degli armatori che dicono: attenzione, se ci tassate in Grecia gli armatori non vengono tassati per i profitti realizzati fuori dalla Grecia, noi portiamo la nostra nave. Sembra un tema molto così da on assis. In realtà, attenzione, perché la Grecia, che già non ha una grande manifattura e già non ha una grande economia, lo dico con massimo rispetto, ha la prima flotta mercantile al mondo, e quindi quando parlano gli armatori non è una cosa da poco, non è semplicemente il miliardario di turno. Grazie intanto Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, dedicata in buona parte alla riforma del mercato del lavoro. Domani, ripeto, 6 pagine con tutti i dettagli sul Sole 24 Ore, ma era necessario, perché come abbiamo poi visto anche dai messaggi, la confusione è ancora molta. Forse il governo dovrebbe fare uno sforzo in più nello spiegare quando entrano in vigore alcune cose e quando invece finiscono anche alcune agevolazioni. Tant'è, noi ci abbiamo provato e ci ritorneremo nelle prossime puntate. Intanto, da Sebastiano Barigioni, l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.